il cuore un foglio, la fedeltà è inchiostro, l'infedele alla fine si dimostrerà un mostro. Fatti forza, non serve giustificarlo, il tuo quadro ormai è gomma e servirà a cancellarlo. Infedeltà nascosta tipo e che gli hai proposto, tradimento un'inculata come una vettura a costa. Il cuore di metallo non fotti con la piuttosto, sbagliare umano contro me non sai cosa ti costa. Predicare bene ma rozzolare male, malignato ogni costo costretto a dover pagare. Hai sete dell'amore ma hai fame di sbagliare atteggiamento animalesco che non si può evitare. Aspettate un momento, serve un chiarimento, bestie da macello servono all'accoppiamento, risposte date a stento come aria di vento. L'infedele giustifica ma solo l'avvenimento, ostaggio dell'amore condannato a una carezza, guarda caso il tradimento avviene stato di ebbrezza. Soluzione evitare serate insieme agli alcolici, l'alcol fa tutti scherza, prova solite equivoci. Il cuore è un foglio, la fedeltà è inchiostro, l'infedele alla fine si dimostrerà un mostro. Fatti forza, non serve giustificarlo, il tuo quadro mai è gomma e servirà a cancellarlo. Il cuore è un foglio, la fedeltà è inchiostro, l'infedele alla fine si dimostrerà un mostro. Fatti forza, non serve giustificarlo, il tuo cuore ormai è gomma e servirà a cancellarlo. Il cuore è l'ultimo dei miei problemi, contiene almeno 300 di questi errori, delusioni che mi porto dentro, esprimo con un flebile lamento. Mento se ti dico che non mi hanno mai causato un pianto. Chi ha usato il mio cuore per riempirlo con l'odio, me l'ha macchiato con qualcosa più indelebile di odio. Ho un nodo alla gola che mi viene quando ne parlo, il dolore fresco e non posso cicatrizzarlo. Cerco comunque di rafforzarmi, da ogni esperienza negativa posso sempre trarre dei vantaggi. Varico, prevarico gli errori che ho commesso e spesso devo fare i conti con il diavolo. Per me la vita è un campo e gli errori una buca, ci cado ogni volta senza trovare via d'uscita. Vivo per le certezze che porto da sempre e se sparirò sarà perché non mi è rimasto niente. Il cuore un foglio, la fedeltà è inchiostro, l'infedele alla fine si dimostrerà un mostro. Fatti forza, non serve giustificarlo, il tuo quadro ormai è gomma e servirà a cancellarlo. Il cuore un foglio, la fedeltà è inchiostro, l'infedele alla fine si dimostrerà un mostro. Fatti forza, non serve giustificarlo, il tuo quadro ormai è gomma e servirà a cancellarlo.